Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Poligamia gay. Ciao Project, salto i convenevoli. Se ti scrivo vuol dire che per me sei ok. Ho 24 anni. Non saprei dire se sono single o multiple, non so se si dice così. Cioè, non ho un ragazzo, o meglio, non ho un ragazzo nel senso tradizionale del termine, ma ne ho più di uno. Non vado per chat di incontri o per cose simili, sono tutti ragazzi che ho conosciuto nella vita reale. Per me non sono solo un interesse sessuale. A questi ragazzi, direi che attualmente sono 3, forse 4, io voglio bene e sono convinto che per me farebbero qualsiasi cosa, come io per loro. Ho letto la mail che hai pubblicato sugli ex, cioè oltre la coppia gay. Per me però è diverso, non ci sono ex. Cioè, magari uno non lo vedo per tanto tempo, anche mesi. Poi quando ci vediamo facciamo anche un po' di sesso. Il sesso per me è importantissimo, ma anche perché mi dà un po' la certezza che quel ragazzo non mi dice di no, non mi rifiuta. Ecco, credo che il punto sia proprio questo. Se un ragazzo mi piace, mi attira, perché è un ragazzo come si deve, allora me ne innamoro, ma nel senso che voglio che con quel ragazzo si arrivi anche al sesso. Per me diventa una specie di ossessione, una specie di fissazione. Mi ci metto col massimo impegno, gli faccio una corte spietata, cioè glielo faccio capire proprio in tutte le maniere, ma se mi rifiuta lo allontano definitivamente. Io voglio ragazzi che mi desiderino anche sotto quel punto di vista. Poi, quando è successo, la frenesia mi passa e diciamo che quel ragazzo per me resta un interesse vero, sesso e affetto insieme, perché allora so che ci posso contare. In un certo senso non mi interessa nemmeno che mi sia fedele, nel senso di fedeltà sessuale classica, diciamo così, perché pure io probabilmente non sarò fedele a lui in quel senso. Però devo sapere di poterci contare. Coi ragazzi faccio sempre un discorso chiaro, non cerco legami stretti, non mi piacciono proprio. Con qualcuno un discorso di questo genere è possibile, con qualche altro proprio non è possibile, allora tutto finisce subito, salvo che non si illudano di poter cambiare le cose. Sia ben chiaro, io non mi ritengo un randaggio del sesso, nel senso che non vado a cercare chiunque. Io devo voler bene a un ragazzo per pensare al sesso con lui. Semmai sono poligamo, nel senso che ho più ragazzi contemporaneamente, ma sono sempre quelli e solo quelli. Magari col tempo qualcuno si allontanerà e ne conoscerò qualcuno di nuovo, ma sono pochi. A me piacciono i ragazzi seri, non i moralisti. Non mi piacciono quelli che ti fanno la predica perché ti vogliono gestire come vogliono loro, come se tu fossi una cosa. Poi certo, succede come che io per certi periodi abbia un, diciamo, quasi ragazzo, cioè un ragazzo che in pratica mi attrae in modo molto forte a livello sessuale e non solo, e allora in quel periodo diciamo che sto solo con lui o soprattutto con lui, ma non succede che diventi una cosa definitiva ed esclusiva. I miei ragazzi lo sanno che sono così. Penso che all'inizio ne soffrano pure parecchio, perché loro pensano che il fatto che io mi dedichi a un altro ragazzo significhi che mi dimentico di loro, ma non è così, e quando lo capiscono, prima restano perplessi, poi però restano stupiti anche in senso positivo. Cioè, per dire, se io fossi tutto e solo di un ragazzo mi sentirei forzato, la sentirei come una cosa non spontanea, e poi chi lo dice che non si possa volere bene veramente a 3 o a 4 ragazzi, ma che debba essere solamente uno? Le regole generali non hanno molto senso. Se per qualcuno funziona così, bene, buon per lui, ma per me non funziona così. Alcuni amici, ma non i miei ragazzi, mi dicono che andando avanti così non mi resterà nulla perché non avrò mai una stabilità affettiva, ma io mi sento bene così. Ad avere un solo ragazzo ci ho provato più volte, ma alla fine diventava una routine, un obbligo, mentre io voglio che le cose siano spontanee. Non sono un assatanato di sesso. Mi piace, certo, è pure parecchio, ma non devo stare per forza a letto con qualcuno tutte le notti, anzi, certe volte passano proprio periodi lunghissimi E poi, certe volte, basta la fantasia e posso fare pure da solo. Su una cosa però sto attentissimo, diciamo proprio a livello maniacale, ed è la prevenzione, ma ormai i miei ragazzi lo sanno e su questo non fanno più storie. Project, io non mi sento strano per questo mio modo di vivere il sesso, sono gli altri, lo ripeto, non i miei ragazzi, che fanno di tutto per farmelo sembrare strano. I miei ragazzi per me non sono solo amici e nemmeno amici con i quali magari si può anche fare sesso, per me sono importanti veramente. Perdere uno di loro mi farebbe stare male, ma non perderlo nel senso che si è trovato un ragazzo, ma nel senso che lui non mi pensa più, che non mi cerca più e anche che mi rifiuta quando magari mi viene in mente di vivere un po' di sesso con lui. Io vorrei comunque continuare a credere che lui c'è e che ci sarà comunque, abbia o non abbia un ragazzo. Lo so che suona strano, lo capisco benissimo, suona strano anche a me quando lo rileggo, però in effetti è così. Io penso che la poligamia gay, cioè una situazione come la mia, esista e come, e che non sia una cosa così rara. Io ci ho messo parecchio a capire che per me funziona proprio così, ma alla fine la mia spontaneità è quella. Che ne pensi, Project? Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.